microfono, intanto vi do il benvenuto così, a viva voce diciamo. Ringrazio i nostri ospiti questa sera, che forse conoscete già, appunto l'architetto Flavio Schimenti, figlio di Benedetto Schimenti, ecco, ha così voluto riproporre il libro che è uscito 20 anni fa, del padre, dove raccoglieva appunto 20 secoli di storia dell'arte in Alto Adige, con appunto degli aggiornamenti in merito a questi studi e queste ricerche. L'architetto Schimenti è impegnato attualmente anche in un progetto per ricordare la fondazione della città di Bolzano, e infatti nel giro di pochi giorni ci sarà anche un convegno, vedete qui la locandina nello schermo che useremo questa sera per andare avanti con la nostra conferenza. È accompagnato dal signor Eccher, che ci sostiene dal punto di vista tecnico. Ecco. Come sempre, ecco, è possibile prendere appunto alcuni libri, c'è un tavolino appunto adibito a questo scopo con i relativi materiali. La biblioteca invece prepara di solito anche una bibliografia, si possono prendere in prestito eventualmente anche i volumi della biblioteca. Per me era un'importante occasione, quando mi è stata proposta dall'architetto Schimenti, quella di ripercorrere un argomento così delicato e così anche ricco e articolato come la storia dell'arte in Alto Adige, che effettivamente era da un po' che non toccavamo più, non avevamo più un'occasione. Questa si è presentata appunto in febbraio, quando è venuto a trovarmi in biblioteca e ha proposto appunto questa rivisitazione, questo aggiornamento del lavoro, ma anche questa disquisizione che ci parlerà appunto di questo progetto dei Vigneti di Bolzano, che è prossimo insomma alla realizzazione, sempre nel mese di maggio. Vi invito poi anche a tornare alle nostre iniziative. L'8 maggio ci saremo di nuovo qui presso il Centro Trevi con un'iniziativa dedicata al Giappone, alla poesia in stile haiku, ma sempre in un ambito, ecco, rimarremo sempre in un ambito molto artistico. Quindi insomma dedichiamo il mese di questa primavera, questa tarda primavera, a degli argomenti che ci elevano. Ecco. Vi ringrazio, a voi la parola e buona serata a tutti quanti voi. Ecco, ringrazio la direttrice della biblioteca Claudio Musa, la dottoressa Trevisan, e io colgo appunto l'occasione per ripresentare il libro che è uscito nel 1987 appunto di mio padre, a cui ho collaborato anch'io, perché gran parte della stesura di questo libro l'ho realizzata io, e praticamente l'abbiamo scritto insieme. Mio padre già in quegli anni si era aggravato del tumore al cervello, per cui abbiamo dovuto assisterlo in tutto per tutto per poter pubblicare questo libro. E io lo ripropongo intanto perché sono passati 3 anni dalla sua scomparsa. L'abbiamo già ricordato in un'altra occasione, che è stato il 13 di marzo, con la proiezione di un filmato che lui aveva realizzato per la RAI di Bolzano, che giunse a Bolzano con un verso d'allegro. Questo filmato probabilmente lo rimetteremo in circolazione tramite sia la RAI, ho proposto alla RAI che lo ritrasmetta in modo che possa essere visibile da tutti. Un filmato che dura 60 minuti e che si rifà essenzialmente sul libro che lui aveva scritto con la mia collaborazione. Da che cosa partiva mio padre? Mio padre partiva dal fatto che a Bolzano esiste una bellezza insita che non è soltanto nelle opere d'arte, nei monumenti, nelle architetture più conosciute, ma è una bellezza che è nascosta. Bisogna guardare nei particolari. Io questa cosa qui l'ho imparata da lui e la sto portando avanti tramite la nostra associazione, la sto portando avanti tramite le visite guidate che abbiamo fatto in parte con l'azienda di soggiorno e con altre associazioni, e vedo che suscita un un interesse autentico, perché sotto lo sguardo attento si vedono, si notano dei particolari che a una prima vista sommaria non si colgono. Guardare è diverso da vedere, perché vedere implica un assioma di tante cose. Alzando lo sguardo invece si colgono dei particolari che prima non si vedono, e in questi particolari non c'è bisogno di grandi studi sulla storia dell'arte o di capire tutte le influenze che ci sono state per cui sono state realizzate determinate opere. Guardare, cogliere i particolari è insito nella natura umana, è insito in quello che noi possiamo cogliere. Adesso si parla tanto di bellezza, no? Dal film, quello che c'è stato, tutti quanti parlano del recupero della bellezza. Perché c'è questo recupero della bellezza? Perché viviamo in un mondo che questa bellezza la sta sciupando, la sta in qualche modo devastando. Pensate per esempio a tutte le deturpazioni che ci sono state in giro per il mondo, da parte dell'ISIS, ma anche da parte di manomissione anche stupidamente dei ragazzi che vivono anche qui a Bolzano. Noi ci stiamo battendo anche perché tanti monumenti non vengono deturpati. Qualche anno fa, per esempio, non molti di voi si ricordano, ma un affresco del Duomo, quello di Friedrich Pacher, quello che è la Madonna sulla parte sinistra, quella che era di buon auspicio a chi andava a partorire, era stata completamente deturpata con uno spray da un ragazzo con la vernice rossa. E io sono dovuto intervenire, perché allora lavoravo con la soprintendenza, perché tanto nessuno si era accorto dello scempio, in primo luogo. In secondo luogo, esiste per fortuna adesso una legge che prevede che chi in qualche modo deturpa le opere pubbliche che abbiano valore artistico, storico, architettonico, ma anche di bene pubblico, possono essere condannati con una pena pecuniaria, per cui adesso il comune, c'è una legge a carattere nazionale che può essere applicata. Noi ci stiamo battendo anche con l'operazione di Retail, che non so se avete sentito parlare, che è un comitato che è sorto spontaneamente e in tutta Italia e che si occupa, sono liberi cittadini, che dove i ragazzi vanno a deturpare e noi invece andiamo a ripristinare quello che i ragazzi hanno deturpato durante la notte. E tante volte i ragazzi non si rendono conto che con un semplice spray che vanno a imbrattare, per esempio, non so se avete presente la Madonna di Piazza della Madonna, dove ci sono le scuole, nella parte antistante la piazza è quasi integra, nella parte retrostante invece è completamente imbrattata di scritte con la vernice nera. Una delle prossime opere di intervento che noi faremo sarà quello con un gruppo di cittadini, ma tutti quanti possono aderire, sarà quello di andare a togliere queste benedette scritte, perché è uno scempio, è un sistema di degrado che va contro questa bellezza che invece noi vogliamo cogliere. Per fare un'imbrattatura con la vernice i ragazzi ci impiegano circa 5 secondi. Noi abbiamo visto che per togliere una scritta con la vernice, che poi esistono vernici di diverso tipo, di diversa natura, ci vogliono dalle 2 alle 5 ore per togliere una sola scritta. Noi una mattina, che abbiamo trovato la fontana delle Regioni di Parco Petrarca, che era completamente imbrattata, perché sul percorso dove i ragazzi vanno a scuola, perché i ragazzi fanno le scritte dove passano, no, è un loro messaggio. Qualcuno mi ha detto, ma è una forma d'arte? No, se va a deturpare qualcosa che è un bene pubblico e ha una storia, perché per esempio quella fontana lì ha una storia di 70 anni, e quindi andare a deturpare un'opera che è costata fatica, lavoro a chi l'ha compiuta, l'ha realizzata, è qualcosa che va da una parte punito, dall'altra parte devono capire che questi atti non vanno bene. Come per esempio esistono tanti modi di rapportarsi con l'arte che non vanno bene, tipo le fontane che vengono o prese a martellate dai ragazzi, o che alcuni pezzi vengono magari venduti, no? Per esempio nel museo dove c'è il municipio cittadino, vecchio antico municipio cittadino, uno dei portali c'è un'aquila, accanto allo stemma di Busano c'è un'aquila asburgica, qualche ben pensante ha pensato di prenderla, di toglierla via e di probabilmente di rivenderla. Ed è uno scienza, cioè vuol dire, è una questione di educazione. In italiano si dice rispetto, rispetto per un lavoro che è stato fatto da altri artisti, da altri artigiani, che ci è pervenuto fino a noi. Mio padre diceva sempre, noi dobbiamo in qualche modo far sì che le opere che chi ci ha preceduto possa essere goduto anche dalle generazioni successive. Se questa cosa qui non avviene in maniera sistematica, alla fine ci troveremo con qualcosa che viene meno. Adesso in quel portale che manca un pezzo della storia, perché l'aquila asburgica era il compendio di quello stemma di Bolzano, quindi manca un pezzo del significato di quel portale. Come tutti i portali del centro storico, io adesso poi, se fai vedere la prossima locandina, ecco, uscirò con quest'altra pubblicazione che è Bolzano Collateral Beauty, che in inglese significa la bellezza collaterale. È un approfondimento del libro che mio padre ha scritto insieme al sottoscritto, e facendo e spiegando i vari particolari dei portali, che anche qui sono spiegati, però non nel dettaglio, alle insegne in ferro battuto. Per esempio nel libro di mio padre lui si è preso la briga di scrivere ogni numero civico in cui ci sono le varie insegne in ferro battuto delle vecchie locande di Bolzano. Quindi c'è scritto numero civico di via museo, trovate il simbolo della chiave, e al numero civico di via Grappoli trovate quell'altro simbolo, in via Bottai trovate i simboli della luna, no? Del pavone. E spiegando anche sempre in questo libro, per questo io poi quando farò la nuova edizione, che sarà presumo a settembre, farò spiegherò ulteriormente queste cose che ci sono già in questo libro, che ancora non è stato superato, perché è una base su cui molti mi hanno detto che molti studenti dell'università si stanno preparando sulla storia di Bolzano, cioè vanno a studiare questo libro perché non ha avuto, come dire, altri riscontri se non in maniera abbastanza sporadica. Quindi è un testo fondamentale che verrà riaggiornato, non verrà cambiato in toto, ma lo spirito del libro rimane questo. Nel mio si spiegherà un po' meglio i percorsi che noi abbiamo fatto con le varie visite guidate che abbiamo fatto per Bolzano, e che comprendono dei particolari che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno scorge. per esempio, quanti di voi sanno quel particolare di quel punto dove si trova? Ecco, per saperlo dovete leggere il mio libro. Poi ci ritroviamo a settembre. È l'ex Banca Austro-Ungarica, poi diventata Banca d'Italia e attualmente Museo di Erzi, museo archeologico, la balconata che sovrasta via Museo. Sono presenti questi bellissimi putti in stile Jugendstil e che sono veramente molto belli, che per questo si diceva a Bolzano esiste una bellezza collaterale, cioè una bellezza che non sotto gli occhi di tutti, ma è una bellezza che va ricercata. Per esempio, tutti i cavelli del centro storico sono di una ricchezza che tanti non conoscono, pur passandoci magari tutti i giorni. Ci sono i ferri battuti delle varie balconate, ci sono anche dei semplici stipiti fatti in puro stile del Seicento che hanno un valore simbolico, perché per esempio sono accompagnati da simboli floreali, questi simboli floreali che sono abbastanza ricorrenti nell'architettura del Seicento, sono per esempio il girasole, il garofano. In altri simboli, in altri emblemi, compare per esempio tantissime volte il melograno. Lo abbiamo presente in tante lapidi, per esempio nella chiesa di San Francesco, in altri simboli nobiliari è presente il simbolo del melograno. Vi ricordate il grosso modo del significato? No. È ricorrente in quasi tutti i simbolismi, sia della cultura occidentale che in quella orientale. È il passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita e viceversa, no? Dono degli dèi, no? Con i frutti del melograno che hanno questa sorta di... poi anche dal punto di vista curativo mi hanno detto che sono efficaci per curare certe malattie. Quindi il simbolo del melograno addirittura era inserito in alcuni emblemi familiari, come tanti altri simboli. Per esempio mio padre spiega più benissimo che cos'è il sole, perché poi nelle locande in Alto Adige viene ripreso il simbolo del sole, no? Sia nella cultura orientale che in quella occidentale il simbolo del sole era benaugurale, per cui chi entrava in una locanda che si chiamava Al Sole aveva qualcosa di assolutamente propiziatorio, e anche chi gestiva quel locale era, come dire, una credenziale, no? Era qualcosa che serviva per dire qui è un locale che è ben gestito, ben custodito, tipo il simbolo della luna. Qui da noi in Alto Adige ci sono tanti locali che si chiamano, che si rifanno alla luna come locanda. Mondenschein in via Bottai è una delle locande più antiche di Bolzano, che ha subito diversi passaggi, ma il simbolo della luna è rimasto sempre. Il simbolo della luna è al contrario di quello del sole, no? La luna, simbolo femminile per eccellenza, però che cosa implica? Implica anche il fatto che questa è una cultura occidentale antica, cioè che la donna è un po' più meno solida del sole, ma è più lunatica. Prego. È un satellite, ma è più instabile come a livello di umore, e però viene ripreso perché comunque è un simbolo positivo, e comunque viene preso come simbolo positivo. Quindi queste cose sono spiegate sia nel libro di mio padre che in questo che in cui uscirò anch'io. E per esempio non tanti sanno che uno delle più vecchie insegne di Bolzano si trova in via Argentieri, al Cavaliere, sul Ritto, giusto? È una delle più antiche, se non la più antica insegna di locanda che esiste in tutto l'Alto Adige. C'è un cavaliere dalla Foggia in costumi medievali, cioè quindi con tutta la alabarda, con tutta l'armatura, in un cavallo molto bello, molto stilizzato, anch'esso bardato, che ha una lancia in resta, e in questa antica locanda che l'insegna me l'ha fatto notare appunto mio padre, è del 1500, prima del palazzo mercantile, ed è leggermente nascosta, non si nota. È un'insegna, voi sapete da dove deriva l'insegna, da insigne, dal latino, e di solito erano elementi fatti a braccio, anche nel moderno insegne che noi usiamo normalmente derivano da queste insegne che già i latini usavano. Questo elemento che sporge a L era per individuare che lì c'era una locanda. Quella del cavaliere era perché lì era adibita, non tutti i locali ospitavano ed erano, come dire, accondiscendenti a far sì che i cavalieri potessero entrare in tutte le locande. Perché? Perché potevano disturbare gli altri ospiti del locale. Poi di solito gli armigeri andavano lì per fare dei bocce, per fare un po' di confusione, quindi non erano ben accetti tutti i locali. Invece lì dove compariva, per esempio, il cappello di ferro, sempre in via Bottai, era una locanda che potevano entrare i militari. Non è che potessero entrare soltanto i militari, ma in particolare i militari erano ben accetti, come questo del cavaliere, e così tanti altri. Quindi si spiegano tutte queste insegne, no? Il cavallino, perché lì era il cavallino bianco, come lo troviamo poi in tanti altri posti, perché era zona in cui avveniva lo scambio dei cavalli, no? Che erano i cavalli postali. In più il cavallino bianco era zona di arrivo delle carovane che venivano da giù da Sorrentino e che entravano in città. Ecco, tutte queste cose vengono spiegate sia nel libro di mio padre, ma approfondite poi ulteriormente in questo mio libro, che sarà un libro fotografico e da una parte ci saranno tante foto e con accanto il commento di queste cose che vi sto narrando. Perché? Perché con le immagini si riesce maggiormente a colpire, no? Per cogliere il segno, ed è una sorta di guida, in modo che anche i ragazzi poi, aprendo questo libro, possono dire: ah, però lì che ci passo tutti i giorni noto qualcosa che invece che magari ci pensano due volte prima di fare un graffito o di sviluppare qualcosa. E quello che sia mio padre che io continuiamo e continuo a insistere è che un'opera d'arte, un manufatto, non è soltanto opera di un artista o degli artisti, non è qualcosa di relegato a un ambito, una competenza specifica degli artisti. Manufatto deriva dal nome di fare, fatto a mano, cioè qualsiasi oggetto, qualsiasi linguaggio non verbale. Voi sapete che il disegno nasce da fare un segno, ed è un linguaggio non verbale, è un linguaggio che nasce prima dell'uso della parola. I nostri antenati comunicavano tramite i disegni, e certe cose sono quindi nella nostra memoria atavica, antica, per cui ogni segno, ogni simbolo che noi percepiamo, questa cosa qui l'aveva spiegata tantissimo bene sia Klee che Kandinsky nel simbolo del, anche nella scuola del Bauhaus. Per questo io poi nel nuovo logo della nostra associazione ho voluto riprendere il logo del Bauhaus di Weimar, che è del 1923, in cui c'è questo uomo che guarda verso il futuro. Però è un uomo che ha la coscienza del retaggio del passato. Klee e Kandinsky hanno spiegato bene, per esempio, l'uso atavico, antichissimo, della freccia, no? La freccia noi la usiamo dappertutto, dai segnali stradali, eccetera, eccetera. Loro spiegavano da dove aveva origine questa cosa qui, dagli uomini primitivi, che addirittura, come gli indiani, segnavano i sentieri già allora con l'uso della freccia. Quindi, oppure la freccia che ha un simbolismo che ascende verso l'alto oppure verso il basso, quindi anche con dei semplici simbologie che noi abbiamo come retaggio in maniera antica, arcaica, che ci riportiamo ancora dietro. Adesso vi faccio vedere due filmati che abbiamo realizzato grazie anche alla collaborazione di Stefano, che parlano un po' di questi 990 anni che vengono compiuti. Il giubileo della città sarebbe il 31 di maggio del mese che viene, e i 990 anni sono il fatto che la città, ancora che non esisteva, era sparsa in vari villaggi, a un certo punto diventa città per un editto imperiale. L'imperatore Corrado II, con il suo editto del 1027, il 31 maggio, dona la contea di Bolzano, che andava dalla zona di Bolzano, dal bacino di Bolzano fino alla Val Venosta, al vescovo di Trento. E questo atto farà sì che successivamente si costituisce un comitatum Bauzanum, per questo noi ci siamo richiamati a questo comitatum Bauzanum, perché sono i 990 anni da questo editto. Da lì nasce e sorge la città, un po' per iniziativa del vescovo e un po' per iniziativa però dei cittadini, i quali dai vari villaggi che erano sparsi nella conca di Bolzano decidono per insediarsi poi nell'attuale via Portici. Grosso modo l'urbanizzazione di Bolzano avverrà intorno al 1000, alcuni dicono 1055, altri 1077, altri 1100, non si sa con esattezza, però la cosa certa è questo editto del 1027, in cui il vescovo prende possesso della contea bolzanina e da lì decide di insediare una urbe, di far sì che nasca una civitas, e questa urbanizzazione sarà fatta poi con i famosi portici e i famosi lotti che poi vengono suddivisi, quelli che in molti libri c'è scritto i vari lotti gotici, che vengono divisi per i vari commercianti che prima si affacciano soltanto lungo l'asse di via Portici, quindi le casette sono soltanto su quel fronte lì, sia da una parte che dall'altra, in mezzo passa la roccia, poi la città viene fortificata, la chiesa di Santa Maria alla Palude rimane periferica, si chiama così Santa Maria alla Palude perché lì esisteva veramente una palude, era zona cutrinosa tutta la zona di là, per cui Bolzano si insedia nella zona più sicura, quindi via Portici era la zona più asciutta. Tuttora se andate sotto il palazzo mercantile sono 3-4 piani di scantinati e sono completamente asciutti. Io ho lavorato nel centro storico come architetto e sotto le cantine sono completamente asciutte, lì non si possono, appunto, i commercianti stipavano le merci perché erano protette. Perché? Perché esisteva questo terreno che è fatto di ghiaia, di sabbia, eccetera, per cui tende a tenere il terreno completamente asciutto. E quindi hanno potuto costruire questa città che è basata su che cosa? Sui sassi provenienti dalle varie inondazioni dei fiumi, del Talvera, dell'Isarco, dell'Adige, ma essenzialmente sono quelli che sono stati tirati fuori e su cui sono state costruite poi le case, che inizialmente erano in legno, poi pian piano sono andate a essere costruite poi in pietra e poi si sono incorpate, eccetera, eccetera. Però quello che mi premeva dire è che sin dall'inizio la città era multilingue, multietnica, non esistevano, i commercianti erano chiamati sia dalla Germania che dal Veneto, addirittura i portici, a un certo punto ho letto diversi testi che i portici sono stati dovuti essere divisi da una parte dei mercanti italiani e dall'altra parte quelli di lingua tedesca, non per questioni di apartheid, ma perché gli italiani, come al solito, avevano iniziato a costruire un po' dappertutto. Allora il principe vescovo ha deciso, da una parte vanno i commercianti italiani, dall'altra invece quelli di lingua tedesca. E così poi è stato. E infatti la parte sulla destra, è, dove c'è il palazzo mercantile, era adibita ai mercanti, commercianti che provenivano dal Veneto, i mercanti fiorentini, i famosi Bocci, che prima erano i rossi, tedeschizzati Bocci, poi più avanti troviamo un palazzo, uno dei più belli, che è il palazzo Troilo, che era una famiglia che proveniva da Rovereto, che poi diventerà invece Troia in tedesco, e che saranno tutte famiglie ben inserite nel contesto urbano, cittadino. Quindi la città nasce da questa convivenza pacifica fra commercianti italiani e tedeschi. Quelli della Germania provenivano, per esempio, da Augsburg, no? E le merci quindi provenivano sia da nord che da sud, quindi Bolzano è una città di transito a tutti gli effetti. Per regolare tutto poi si è creato il magistrato mercantile, in cui poi la sede era il palazzo mercantile, e chi va a vedere nelle cantine sotto il palazzo mercantile c'è spiegata tutta la storia dal 1200 in poi. Pensate che, per esempio, Bolzano già dalla fine dal 1100 i mercanti veronesi venivano qui due volte a settimana a commerciare le loro merci, per cui c'era un commercio continuo di merci, ed è spiegato bene nella storia del palazzo mercantile e anche negli atti che sono presenti. Tuttora nelle cantine c'è un registro, tabellone, in cui c'è le merci che si scambiavano a Bolzano. Sono scritte in tedesco e sono scritte in italiano, ma è un italiano che ha delle influenze veneto-trentine, per cui l'olio è scritto in maniera strana, l'accento anche, e poi si trova, per esempio, già allora si usava il prosecco, per cui c'è fra i vari vini che venivano importati a Bolzano si trova anche il prosecco, oppure spezie particolari che uno dice, ma come nel 1200 c'erano già queste spezie qui a Bolzano? Sì, Bolzano era ricca per questa e si è sviluppata grazie al beneficio di queste merci, perché qui chi veniva dalla Germania trovava delle cose che altrove non poteva trovare. Adesso torniamo ai due filmati che abbiamo messo insieme, che sono da una parte un po' quella che stiamo facendo con il comitato dei 990 anni, d'altra parte con un po' la storia della nostra associazione, qualche nostalgico qui c'è, che ha conosciuto mio papà e quindi vedrà qualche vecchia immagine. Partiamo con quello del 1990. C'era anche il commento sonoro, ma non possiamo trasmetterlo per via della SIAE. No, penso che... Ecco, la storia... Sì, man mano... Ecco, torna magari un attimo indietro, se possibile. Ecco, abbiamo avuto bellissimi parchi del Talvera perché ci sembrava significativo. Tanti dicono che Bolzano, Torre Bolzano, è il centro storico, è quello che nel progetto di alcuni ben pensanti adesso è tutta l'area della stazione. Invece no, il cuore di Bolzano è lungo il Talvera. I parchi del Talvera sono il fulcro della Bolzano che si è sviluppata sia verso Gries che verso Bolzano, con comuni che erano separati di 12 ville, Gries e Bolzano. La costruzione del ponte, del famoso ponte Talvera, che vedete, questa immagine è quello precedente, quello in legno, che è stato costruito e ricostruito per diversi secoli. Ed era un ponte in legno che però congiungeva le due sponde. E lì in questa immagine, in questa immagine potete notare che c'era addirittura un servizio che veniva svolto da quel signore lì, che chi non aveva tanta mobilità o comunque voglia di camminare per stare da una parte all'altra, veniva condotto da questo portantino, quindi portava da una parte all'altra con questa comoda poltrona. Da una parte vedete dove c'era adesso la biblioteca civica, c'era il macello e lì c'era la dogana. Sotto c'erano gli argini che nel corso del secolo sono stati costruiti a Bolzano, sia dalla parte di Gries che dalla parte di Bolzano. Questo è il ponte prima della realizzazione di quello nuovo agli inizi del Novecento. Ecco, questa è l'inaugurazione il 4 di novembre del 1900, in cui c'è questa grande festa cittadina in cui si congiunge finalmente la storia urbana della città, da parte di Gries con la parte di Bolzano, e la costruzione del ponte, che era tutto realizzato in ferro, era avveniristico, perché da lì poi passerà il tram, no, che in tante immagini che si vede, e il ponte che c'è attualmente, voi pensate che sia quello originale? No, è tutto stato rifatto. Se andate a vedere nelle varie baluste c'è scritto Milano. I pezzi originali sono neanche i lampioni, perché anche quelli sono stati sostituiti, e non c'è quasi più niente di originale. E quindi questa immagine è anche abbastanza significativa. La cosa buffa, tra virgolette, è che i lampioni originali sono nei depositi comunali, che andrebbero, io ho già chiesto al sindaco, che andrebbero recuperati. Anche perché molti di questi sono stati fatti a Budapest, sono stati fatti a Linz, sono stati fatti nelle città austriache, a Graz. Se guardate, per esempio, tutto il sistema idrico della città vecchia, compreso via Cassa di Risparmio, sono ancora con, io lo spiegherò nel mio libro, sono fatti ancora con il vecchio sistema di irrigazione. Quindi c'è scritto Graz, c'è scritto Budapest, ci sono scritte tutte queste città in cui le fonderie fornivano la città di Bolzano le varie condotte, perché Bolzano non aveva fonderie allora. Ecco, questa invece è l'inaugurazione delle passeggiate. fra il 1905 e il 1907, le Wasser Mauer Promenade di Bolzano, e questa è, non è la giornata di inaugurazione, ma è la giornata, una giornata primaverile, in cui i cittadini si trovavano lungo queste passeggiate che erano state costruite fra il 1905 e il 1907 e che si estendono tuttora per 1600 metri, quasi un chilometro e 600 metri, che congiungono appunto da Ponte Talvera fino a Ponte Sant'Antonio. Ed era la camminata che i cittadini bolzanini facevano normalmente durante il periodo della primavera e il periodo dell'estate e anche dell'autunno. Lì vedete un particolare, fra quei due lampioni c'era la statua di Re Laurino, tanto criticata, tanto contestata, eccola lì. Ed era stata posta proprio come contesto, come contorno delle passeggiate. Ecco, il dibattito attuale è, lo chiamo lì oppure no, c'è il discorso aperto, io sono dell'ipotesi che torni lì. Altri la pensano diversamente, però vediamo quando si viene sistemata Piazza Magnago, poi questa fontana dove finirà. Però il contesto sarebbe quello, anche perché la statua, poi la vediamo forse in un'altra immagine, ma qui c'è Bolzano ancora con... Vedete che la funzione agricola di Bolzano continuava, anche se c'era già il tram che passava, perché sotto questo carro pieno di fieno passava già il tram. E si vede qui meglio tutta la parte dove è stata spostata, no, quella era la dogana che è stata spostata poi nella zona di Rencio, che è stata spostata pietra per pietra per fare il posto poi alla biblioteca. Qui invece vedete sulla sinistra la cassa di risparmio che già esisteva allora, che poi è stata modificata durante il trentennio, il ventennio. Qui siamo in Verano, però, e l'imperatore è venuto diverse volte sia a Bolzano che a Verano. Qui era nel contesto di Verano, però qui è anche sempre lungo le passeggiate. Lungo il passeggio, sì. Qui siamo sempre a Verano, e però vedete la vita che si faceva all'inizio del secolo sia a Bolzano che a Verano era molto simile, cioè che se avete presente il quadro anche del domenica pomeriggio nell'isola della Grangeat, l'idea era un po' quella. Ecco, questa è una cosa un po' particolare, questa è prima della costruzione della passeggiata ed è praticamente dal vicolo della sabbia ci sono ancora parte di queste murature, esistevano ancora i mulini lungo il Talvera, tant'è che poi la fabbrica che viene costruita a monte usava l'acqua del Talvera nel cotonificio, no? E questo era uno dei tanti mulini che ancora esistevano alla fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Poi si intravede la Torre d'Uso e alcune case che sono ancora, alcune immagini che ci sono ancora attualmente. Ecco, questo è un altro particolare che è interessante. Questo dov'è? Dov'era? Qui si divideva il tram che veniva da Talvera, poi andava verso la rimessa dietro l'attuale Piazza Vittoria, e questo è esattamente dove c'è il Monumento della Vittoria. Era il Parco del Talvera, e questo era l'accesso del Parco del Talvera, che si divideva in due parti. C'era la parte dove c'è il Monumento della Vittoria e la parte che poi proseguiva verso il Parco Petrarca, e Già allora era parco, Talvera. Questo parco veniva chiamato anche dai contadini, anche dagli abitanti di Gries, perché questo era ancora Gries, parco di Glicini, perché poi lo vediamo in un'altra immagine, se c'è qua in sequenza. Questo arco era pieno di glicini. Qui è durante la costruzione del tram, e qui è una derivazione del tram che si biforca poi tra Gries, via Fago, sì, e poi invece dall'altra parte andava verso la Rimessa. Ecco, questo è in primavera, e qui c'è il tram che proviene dalla Rimessa e quindi prosegue poi verso Punta Talda. E questo è, sì, siamo in primavera, il glicine, abbiamo visto che è ferito fra marzo ed aprile, quindi il momento è quello. Qui poi c'è un bellissimo libro, non so se nella vostra biblioteca c'è, e c'è tutta la storia del tram di Bolzano con tutto l'itinerario del percorso che faceva il tram di Bolzano, quindi tutta la zona di Gries, tutta la zona di Bolzano, fermata per fermata con le varie cose. Andiamo avanti. Ecco, qui proseguiva poi per vari tratti. Ecco, questo è invece. Questa invece è la parte di Bolzano, con i vari monumenti che erano presenti allora. Non so se via Cassa di Svano ci sia già, ma mi sembra che non sia ancora stata disegnata. No. Andiamo avanti. Ecco, questo è il famoso monumento di Re Laurino e di Teodorico, tanto contestato. Questa immagine si vede bene che lo sguardo sia dell'uno che dell'altro erano rivolti verso lo Schiller, Rosenberg, quindi era esattamente, avete presente, dove c'è il chioschetto, sì. Un po' più avanti, esattamente nella prospettiva delle montagne, era esattamente collocato lì, e lì sarebbe il contesto su cui dovrebbe essere collocato. Poi c'è un po' la storia del parco fatto da me, non mi sa, perché ci andavamo in questo parco, e la cosa interessante è che prima che venisse costruita la gabbia dello Supplippo, dove attualmente c'è l'Odeon, c'erano le altalene, e lì c'era ancora un pezzo di campagna, vedete, dei vigneti, e noi andavamo lì, le altalene, quello sulla sinistra sono io. Ecco, qui è una delle prime immagini di Bolzano, 1507, e la prima registrazione, la prima immagine che noi conosciamo di Bolzano, ed è una famosa inondazione che era avvenuta in quegli anni e che è stata documentata dal 1541, scusate, è presente nell'archivio di Innsbruck. L'immagine qui in bianco e nero in realtà è a colori, e si vede come hanno in qualche modo cercato di sbarrare le varie esondazioni. La parte che vedete più in alto è il ponte Talvera, che già esisteva in legno e che accede verso l'abitato di Gries. Ecco, qui è questa immagine, la conoscete tutta, è del 1607 invece di Ferdar, ed è un acquarello con la Bolzano, la parte storica, quella più antica. Su questa immagine poi il Menian rielabora quella successiva. Ma questa mia nonna invece va. Qui c'era il cremino che poi è stato tolto, qui ci sono alcune immagini di, del parco soltanto 20 anni fa com'era, ed era già un po' meglio. Noi stiamo insistendo con col comune perché invece venga fatta opera di manutenzione in maniera costante, perché i vandalismi qui avvengono tutte le notti. Le panchine che avevano risistemato soltanto 2 settimane fa, nel giro di una notte le avevano già. Ma non mi sono nel tavolo, è vero. Ce n'è una nel tavolo, perché erano. Sì, ce n'è una nel tavolo, ma da parte quella delle, della parte delle passeggiate di Bolzano, se avete notato, hanno risistemato tutte le assi. Il giorno di notte le avevano già scassate. Comunque c'era anche un giardino botanico, mi ricordo. Sì, esatto, quello, e noi abbiamo proposto che venga ripristinato per le scuole. Interessante. Qui queste immagini sono fatte da mio padre vent'anni fa, perché lui andava poi su questi, su queste foto poi dipingeva i vari suoi quadri e gli servivano, però a noi serve come documento storico per capire in 20 anni anche come è cambiato il parco. Mi hanno detto il giardiniere comunale, allora avevamo più manodopera, più operai. Sì, è anche vero, però. E anche lo stato delle piante, se vedete, era più in salute, non so se a causa climatiche o. I cordoli, per esempio, adesso sono tutti rovinati, questi famosi cordoli, che sono quelli che sono stati sistemati dalla parte di Bolzano, erano quelli del 1907. Questi qua invece sono quelli quando è stato sistemato il parco negli anni 30. E questi li possiamo vedere anche in maniera veloce. Qui c'è sempre mia sorella, questo sono io. E qui è invece un particolare, sì. E quasi tutti gli alberghi di Bolzano avevano un proprio cortile interno con tavolini, e avevano, ognuno di essi aveva il proprio padiglione per la musica, in cui le varie orchestrine andavano a suonare. E qui rende bene l'idea di come anche l'interno. Qui siamo all'Hotel Scala, nel quartiere dell'Hotel Scala, che in parte c'è ancora, ma in parte è stato poi diviso da, è stato ridotto da, dai condomini che ci sono lì dietro, per cui non è più così, però queste parti qui esistono ancora. Un bel parco, sì. Questa è la sistemazione del. Questa immagine l'abbiamo già vista, la Torre d'Uso e il Rio Fago, prima della costruzione di quello scempio che. E anche il fatto che a suo tempo gli ambientalisti avevano ragione nel contestare il fatto che si sarebbe ridotto anche la portata del rio. In effetti, se notate la mattina, a un certo punto non scorre più, è completamente asciutto. Invece nell'Ottocento, come è documentato anche da queste immagini, il rio era bello e prospero. Sotto la Torre d'Uso, che si vede molto bene, e anche i resti del castello si notano molto bene, c'è la chiesetta, che forse pochi di voi conoscono, di San Giorgio. Questo borgo che c'è lì, insomma. Prego? Quel borgo con. Sì, la chiesetta che lì sotto e non è visibile perché è stata completamente coperta dalle piante. Era la cappella palatina del castello, esatto, per intenderci. E qui vediamo sempre Bolzano, però è dalla parte dietro la Torre d'Uso, dalla parte di la Ponte di Sant'Antonio. A proposito, Bolzano, luogo di feste, qui siamo sotto il Virgolo, vedete, c'è il Virgolo, la chiesa del Virgolo, poi c'è Ponte Loreto, lì c'era il Lazzaretto cittadino, perché il Lazzaretto cittadino doveva essere chiaramente fuori dalla città, si intravede la chiesetta che era dedicata a San Giovanni, a quel che benedice le acque. San Cristoforo. No. Mm. C'è il santo che protegge le acque, e in quasi tutte le località dell'Alto Adige c'è questo, anche a Bressanone, c'è questo santo che protegge le acque. C'era una chiesetta. Questo è l'ingresso dell'imperatore a uno dei tanti imperatori con l'altro 700 a Bolzano, venivano per omaggiarlo. Qui siamo all'altezza di via Alto Adige, tanto per intenderci, ed è praticamente nello spiazzale, nel piazza Verde, no, sì, Piazza Verde si chiama, no? Dove c'è il teatro, quello spiazzo lì, e lì venivano le manifestazioni, perché i regnanti che provenivano normalmente da Trento, perché lì passava la strada che conduceva verso Trento, arrivavano e qui c'era l'ingresso in città, e venivano costruiti questi grandi festoni, questi portali, questi archi di trionfo, dove sotto gli imperatori passavano, alla maniera degli imperatori romani. Bolzano era una città accogliente, festeggiava chi veniva a trovarla. E qui c'è un'altra celebrazione, lì si vede in particolare, se notate sulla destra in alto, di un portale un po' strano, di che avevano realizzato, sembra quasi un'opera di Hieronymus Bosch, in maniera un po' strana. Era però un arco su cui... Non c'è il Duomo ora? Sì, è tagliata l'immagine, dovrebbe esserci il Duomo. Sì. E sotto? E sotto ci sono tutti i cittadini che stanno omaggiando l'imperatore. Andiamo avanti. Ecco, questa è la veduta di Bolzano, invece vista da... vista sopra Sant'Antonio, quindi dal passeggiante del non di Cucina. Sant'Osvaldo. Anche qui andiamo avanti. Questa è invece è da i viandanti che venivano dal Sorrentino, che giungevano a Bolzano e passavano da siamo nel tempo? Sì. E passavano dal parco Petrarca, le passeggiate lungo, si passava da lì. Se notate qui sul margine c'è una piccola cappelletta e sotto vedete c'è un contadino che sta pregando. Questa cappelletta esiste ancora, deturpata, perché è stata completamente imbrattata dai Breiter, ed è una cappellina del Settecento in cui gli andanti che provenivano dal Sorrentino si fermavano a pregare prima di entrare a Servies oppure per arrivare a Bolzano. E praticamente dietro, dove c'era l'orto botanico, di fronte. Ed è la cappella adesso è curata da Max Schutzverein, ed è della famiglia Duisprenker, di Duisprenker. È vero, sul tavolo c'è questa cappellina del Settecento, però però è completamente deturpata, perché hanno provato anche diverse volte a ripristinarla, sistemarla, ma lì, siccome passano i ragazzi e non hanno presente che cosa hanno di fronte, continuano a scriverci sopra. Che poi io sto imparando a conoscere tutti gli autori di questi libri. Qui c'è il Ponte Tardo, è ancora in legno, e ci sono gli argini che vedete. Qui siamo sulle passeggiate di San Quirino. E c'erano tutti questi giardini, che poi vediamo anche in un'altra immagine, che erano molto belli perché le case che si affacciavano da parte di San Quirino verso il Tardera erano pieni di questi giardini. Ecco, qui lo vedete meglio in questa immagine. Vedete Ponte Tardera, i giardini che avevano ognuna la loro fontana, perché l'acqua chiaramente c'erano i vari pozzi a cui si poteva attingere, qui era visione di Bolzano da parte di San Quirino. E qui sono tutti questi parchi che costeggiavano lungo questa sponda. Via San Quirino, cioè la passeggiata di San Quirino, è stata costruita anch'essa negli anni 30, no? Prima non esisteva. Questa è un'interessante immagine perché ci fa vedere Ponte Tardo coperto stranamente, alcuni mulini, e sulla sinistra vedete c'è la cappella di San Quirino. La cappella di San Quirino che era ancora, fino al 600, era ancora fuori non era completamente interrata come adesso, ma era ancora fuori, si vede tutta la sua forma, che era tonda, e chi va a vederla dietro la può vedere completamente nella sua forma originale. E anche quella? La cappella di San Quirino, sì. È in via San Quirino, sì. Prima di arrivare all'imbocco di via Venezia, sì. C'è un vecchio maso del 600, sì. Su cui praticamente è stata costruita sotto è rimasta la chiesetta, uh-huh. E in questa forma circolare è una delle testimonianze storiche più antiche di Bolzano, uh-huh. E alcuni ipotizzano che sia stata costruita già nel terzo, quarto secolo, uh-huh. Anche perché la forma circolare richiama le chiese a pianta centrale, quindi sono quelle più antiche. E la storia, non so, molti, forse alcuni la conoscono, di come nasce questa cappella? No. Beh, vi racconto rapidamente. Alcuni pellegrini stavano portando le reliquie di questo famoso San Quirino verso la Germania e a un certo punto erano stanchi e affaticati dal viaggio, si addormentano proprio su quel sito, su quel posto, e addormentandosi perché avevano, diciamo, omaggiato il vino locale di Bolzano, e quindi sono addormentati e gli appare in visione la figura di questo santo, il quale, o adesso non mi ricordo se questo santo o comunque, il quale dice di costruire in proprio ricordo del suo transito una cappella, e quindi i Bolzanini la prima cosa che fanno è una delle più antiche testimonianze di una chiesa costruita a Bolzano, oltre a quella di San Giovanni, oltre a quella di Santa Maria la Palude come basilica. Questa è una delle più antiche. I proprietari purtroppo sono molto gelosi custodi di questa cappella, per cui ho chiesto diverse volte di poter fare una visita guidata, ma non è possibile. Ma è sotto la tutela? Sotto la tutela, ma è proprietà privata, per cui non si riesce assolutamente ad accedere. Io ho visto le foto, è in soprintendenza ed è costruita interamente in pietra, è semplicissima, con questi grandi blocchi di pietra in porfido, sostenuta da un unico pilastro centrale che sorregge l'intera volta. Si vede passando a via San Quirino, Bisogna però entrare dentro il cortile, c'è un ambulatorio, c'è un ambulatorio e si vede tutta questa muratura. Poi c'è una scalinata a cui si accede, sono dei gradini, e praticamente sotto c'è questa cappella che è intera, perché è ancora la forma circolare, si vede ancora. Sì, si entra, c'è un ambulatorio medico, per cui l'accesso è libero. E qui invece siamo al contestatissimo Parco del Tabera, e qui è la sistemazione dell'Ottocento, siamo intorno al 1870, in cui ancora c'è la campagna, e su questo sedime Sebastian Altman crea il viale e il parco della stazione, che era, e poi lo vediamo anche nelle altre immagini, il parco per eccellenza cittadino. Era il più bel parco di Bolzano. Beh, c'è ancora delle piante pazzesche, ci sono dei platani che hanno... Per vedere com'era il parco allora bisogna andare a vedere il Park Hotel Laurin, che ha transennato una parte, e dietro potete vedere com'era il parco una volta, con le piante, come erano sistemate bene. Cioè non lo scempio che c'è adesso. Qui invece siamo dalla parte verso i piani, guardando verso il Brennero. E qui invece sono sempre le passeggiate di Bolzano con visione Lucidia, e qui tutto il sistema che andrebbe recuperato delle murature che sono presenti e che sono talmente devastate da arrampicanti e da altre cose che non si notano più, ma sono dei bellissimi elementi in ferro battuto che sono tuttora presenti, basta spostare le piante e si vedono. Lì è il Palazzo Gersburg. Qui invece parte della stazione, e accanto c'era il teatro e il viale appena alberato com'era. Qui la barca invece sulla destra, che è quella che dovrebbe essere certamente. Il palazzo è il Palazzo Christadel. Qui è via Peratonese. Qui è la via Peratonese. Ancora Bolzano, ecco qui il Teatro Verdi con la sistemazione esterna del parco. E vedete com'era questo parco, era il biglietto da visita della città di Bolzano, quindi i turisti che arrivavano durante l'Ottocento principalmente in treno, ormai la carrozza era stata abbandonata, quindi la stazione di Bolzano accoglieva i propri visitatori con questo bel giardino e il teatro appena costruito. Qui è l'arrivo dell'imperatore, sempre a Bolzano, e qui siamo nella zona della stazione. Siamo esattamente dietro la stazione, qui siamo nel parco della stazione e i bambini bolzanini che stanno salutando il re del trono. Ecco la funicolare del vicolo. Sì. Bisognerebbe ripristinare, invece, che non so se avete visto il progetto, è una cosa aberrante. Avete presente la stazione a monte del Renon? Sì. Quella che verrà costruita secondo il progetto del signore di là, che a suo tempo, tanti anni fa, sarebbe stato un estero comunitario, perché la nostra non faceva parte, non facevano nomi, e nel suo progetto ha ipotizzato una stazione a monte che è peggio di quella della stazione a monte del Renon. Cioè è una cosa che chiede vendetta, invece Nicolare aveva un perché. La bomba. Prego? Ha preso in pieno le bombe perché era vicino alla ferrovia. Però si potrebbe ripristinare perché ci sono ancora tutte le difese. E io l'ho visto. E io non ho avuto caso. Qui siamo invece in piazza Bart, quando arriva la luce elettrica. Bolzano è una delle prime città che ha la luce elettrica, non la luce a gas, la luce elettrica viene portata, vengono fatti degli impianti alla vanguardia perché Bolzano era diventata una città turistica per eccellenza insieme a Gries. Gries e Bolzano allora si facevano concorrenza. Tanti alberghi che aveva Gries e tanti alberghi che aveva Bolzano. La prima stazione meteorologica è stata costruita a Gries ed era alle Marcelline, il casino dove ci sono le Marcelline era il casino. La prima stazione meteorologica e trasmetteva tutti i giorni questa stazione meteo a Monaco e a Vienna le temperature di Bolzano, perché così i turisti potevano sapere che tempo faceva. Mediterraneo, no, ma infatti Gries e Bolzano erano note per il clima mediterraneo, per questo ci sono certi piani. La passeggiata, quella che va verso il Guncina, sì, è piena di piante mediterranee, ci sono gli ulivi, ci sono i cactus. Anche lì ci sono delle stazioni meteo piccole ed era stata voluta proprio per questo. Qui vediamo sempre le passeggiate del lungotallo della Bolzano, Castelmareggio da questa sponda. E questa invece è la costruzione del ponte Loreto, che allora era anche un ponte all'avanguardia. Ponte Tardara nei primissimi anni del Novecento. E qui invece siamo nella terrazza dell'Hotel Germania, che molti di voi ricorderanno. E anche qui i turisti, c'è un bellissimo filmato che è presente al museo, no al museo, all'archivio storico di Bolzano, che lo fanno vedere nel monitor in sequenza, in cui si vede un vecchio filmato in cui ci sono dei turisti che stanno facendo una passeggiata. E nel frattempo passa anche, se vi ricordate, lì c'era anche un'altra funicolare, quella del Guncina. Esatto. E c'è anche un filmato che riguarda quella funicolare lì. E qui i turisti si affacciavano per vedere Bolzano, poi è venuto quello che è venuto con quell'hotel. Anche qui, cartoni dell'epoca. Ecco, qui è interessante perché siamo intorno appena è stato costruito il monumento della Vittoria, quindi tra il 26 e il 28, e vedete le case Incis. Le case di Incis non sono, cioè, notate come sono adesso. Per quale motivo? E io durante il percorso che ho fatto, nelle visite guidate che ho fatto sia per il giorno che ultimamente, l'ho spiegato anche perché, e quando viene inserito un monumento alla Vittoria e poi viene inserito Corso Libertà, che allora si chiamava Corso 9 Maggio, 9 Maggio perché era la proclamazione dell'impero, viene tracciato Corso Libertà. Nel contesto degli edifici, dello skyline degli edifici che vengono progettati da Piacentini e dai suoi collaboratori, quelle case lì ricordano troppo l'Ottocento. Quindi cosa viene fatto? Viene fatto un restyling. Le case rimangono, ma vengono rifatte completamente tutte le facciate. Perché per avere un'idea di come queste case Incis fossero, dovete vedere quelle che sono vicino all'ospedale, che erano anche quelle case Incis, che sono un po' più... questo stile qua veniva chiamato all'epoca neobarocchetto romano, perché gli architetti che avevano realizzati erano di origine romana e avevano, non siamo ancora nell'ambito razionalista, non siamo ancora nell'ambito piacentiniano, che negli anni 30 esisteva ancora un retaggio ottocentesco, per cui venivano costruite delle cose in stile eclettico, e questo era il retaggio dell'eclettismo. Dentro queste case Incis, e poi l'ho messo anche nel mio libro, c'è una bellissima fontana dentro quel piazzale, dentro il cortile interno, che una volta era tutta dipinta. Adesso si vede qualche barlume di pittura, ma è una bella fontana che ricorda una fontana del Settecento romano, dalle forme quasi rococò, anche nei basamenti ha delle cornici, degli elementi molto, molto belli. Non sembra neanche costruita nel XX secolo, ma sembra costruita nel Settecento. Purtroppo anche questa non è utilizzata, perché nessuno si cura di questa fontana, però andrebbe valorizzata anche questa. Ecco, qui invece c'è il tracciato, no, di Corso Libertà fino a Gries. La strada di Gries invece ricordiamo che andava su questo lato qua, dove vengono costruite poi le case di Louis Trenker, che sono quelle più vecchie. Dall'altra parte qui c'è il parco Petrarca, la fontana delle legioni e i vialetti dove vengono poi posti i pini. Inizialmente dovevano essere pini marini per ricordare la mediterraneità, dopodiché invece vengono posti dei pini domestici che sono un po' più resistenti. Ecco, questo è il parco come è stato fatto tra il 37 e il 38. Prego. Sì, è ancora grosso modo così, ma stiamo facendo di tutto perché ritorni a essere così. Ecco invece lo stato in cui sono i nostri parchi. Ecco, questo è uno dei prossimi nostri, delle nostre prossime mission, è quella di ripristinare la casetta del giardiniere, che è stata fatta dallo stesso architetto che ha costruito le passeggiate, che siamo nel 1907, ed è in stile anche questo eclettico, ed è tutta, ma proprio tutta, deturpata. Ma poi c'è dall'altra parte, è praticamente invisibile, perché è completamente mangiata dall'arrampicante, sì, sì, che viene su dalla linea. E questi, beh, questo è il Tavola quando ristagna l'acqua. Queste sono le scritte che compaiono nei vari sassi. E questo è un ragazzo un po' indeciso. Non so se ti amo. Non so se ti amo. Siamo contenti di tutto ciò, ma non c'era bisogno di scrivere sul sasso del Tavola per avere questa. E poi se devi vedere il tavolo si trova un po' di tutto, incidente anche. Sì, ecco, questo è dopo un sabato sera. Ecco, eravamo tre comuni, no? Allora. Sì. 12.000, va bene. Oltrisacco, con chi era? Oltrisacco era... Oltrisacco... Ma doveva essere con Bolzano. Sì. Non con 12 vini. No. Perché si spartivano, c'era un confine abbastanza largo. Una parte ce l'aveva 12.000 e una parte ce l'aveva Bolzano. Comunque era un quartiere austro-ungarico, no? Cioè sì, tedesco come quartiere. No, il quartiere di Oltrisarco è sempre stato un quartiere, tra virgolette, ghetto, perché ci andavano gli operai italiani, quelli che erano andati a fare le bonifiche e avevano lavorato lungo prima la ferrovia del Brennero, e quindi nell'Ottocento, e poi bonificare tutta la parte della Valle dell'Adige sotto e la zona che va verso Merano, era tutta la zona da bonificare. Ah, quindi venivano case, chiamati sul lungo la via Claudio Augusta, ci sono delle belle case, sì, della scuola stessa, Tambusi sono... sì, beh, era sì, non è sicuro, prego, di Oltrisarco non abbiamo ben capito ancora. Sì, ma se era con Bolzano o con 12.000. Ma comunque c'è al catasto c'è una cartina geografica in cui c'è la ripartizione delle mappe catastali. Tuttora le mappe catastali sono sotto i tre comuni. Sono abita Gries, cioè abita il comune di Bolzano, però deve chiedere un estratto tabulare. Che nell'ambito di Gries compare il tabulare di Gries, o comunque lì si può vedere esattamente dove ci sono questi confini. Comunque io presente lì al catasto che c'è una mappatura antica in cui ci sono i confini fra i tre comuni. Ecco qui scritte che compaiono, anche qui siamo contenti che loro comandano dal 1996, però forse noi c'eravamo anche prima. Lo slogan con cui noi ci stiamo battendo, perché in qualche modo vengono valorizzate sia le passeggiate, ma anche che si riprenda un po' la vita che esisteva, non dico all'inizio del Novecento perché è improbabile, è impossibile. Molti mi hanno detto: ma allora non c'erano altre attrazioni, quindi la gente passeggiava, conversava, si trovava al parco. E sì, è vero. Però rendiamoci conto che noi abbiamo di fronte invece delle bellezze che, della natura e anche delle bellezze dal punto di vista paesaggistico, perché dalle passeggiate del Talbera si nota tutta la conca di Bolzano, quindi con tutto il circondario che quindi non io nei vari manuali delle guide di Bolzano scriveva: questo è il posto più bello in cui ammirare le bellezze di Bolzano, perché è l'unico, si può vedere Lucilla, si può vedere il Castel Sarentino, si può vedere la Torre Druso, si può vedere verso il Virgolo, cioè è ampio lo sguardo. Poi è interessante il fatto che il ponte, la costruzione del ponte sia stato proprio l'unione della città di Bolzano, quello che è stato fatto all'inizio del Novecento. Era un auspicio perché la Bolzano, quella che noi stiamo vivendo, crescesse, si ampliasse, diventasse qualcosa che tutti quanti auspicavano diventasse, no? Una zona di convivenza pacifica tra le varie etnie. E quindi il ponte è sempre stato simbolico, cioè quando c'è stata questa unione tra Bolzano, 12.000 e Gries, è stata una festa della città perché univa la città. E noi vogliamo, in qualche modo, celebrando questi quasi 1000 anni, vogliamo che sia un'occasione per ricordare la celebrazione di quello che ha generato questa città, no? Che sono state diverse comunità a livello etnico, ma che avevano una finalità comune, no? quindi la bellezza di un... La produzione artistica che c'è a Bolzano non c'è in altri luoghi. Bolzano è tipica e caratteristica proprio per questo, perché c'è questa miscellanea di diverse esperienze, di diverse culture, di diversi artisti che provenivano dalla Germania, dall'Austria, dalla Boemia, e chi proveniva invece dal sud. Quindi c'è un'unione perfetta. Pensate a un Michel Pachter: senza la cultura italiana non avrebbe mai espresso quella fantasia, quella creatività che è tipica di Michel Pachter. Quindi le influenze sono state reciproche, e Bolzano in tutti i particolari, questo che si vuole ribadire, in tutti i particolari esprime questa cosa qui. E vogliamo vedere anche l'altro filmato velocemente, poi concludiamo, non so se ci sono poi domande. Volevo chiedere, quando è stata realizzata per la prima volta l'avvento dell'energia elettrica a Bolzano? Fine 800, fine 900, però ciò bisogna guardare, cioè sul libro di Leitenberger, Storia urbanistica di Bolzano dal 1100, alla fine del libro c'è una scaletta di tutta la cronologia di tutti gli avvenimenti che sono accaduti a Bolzano. Esattamente tra fine 800 e inizio 1900 c'è la data esatta. Adesso non direi una fesseria se dicessi 1898, ma mi pare che sia giù di lì. Vediamo in sequenza. Questo lo lasciamo scorrere senza commento, anche perché alcune foto sono appunto dell'associazione e riguardano un po' la figura, quella che è mio padre. Beh, qui siamo ancora noi, e vedete però il parco come era bello. Qui siamo io e mio papà a Palermo, mi vestivano il tirolese anche andando a Palermo. Ecco, la faccio parlare, ma è nata lì. Anche Milano. Sì. E questi sono i miei nonni, praticamente. Questa è mia nonna e dice mio papà con sua mamma. Mia nonna, in costume albanese, perché era piena albanese e era vicino a Palermo. Qui è mio papà da giovane. Passione per l'arte e per la letteratura e la cultura del secondo ultimo. Questo invece è mio nonno. Che bello che sono anche queste foto. Che però poi va a combattere in Spagna con il battaglione, con deciso un battaglione internazionale, e qui lui insieme ai suoi compagni di avventura. Che qui siamo sempre in Spagna. E poi va a combattere anche a Monte Cassino. Monte Cassino. Qui sono io con mia mamma. E poi nasce l'associazione qui nel 1996, e queste sono tutte le iniziative che abbiamo svolto nel corso degli anni. I vari viaggi, le varie esperienze, insomma è una storia che è nata con mio padre nel 66, già faceva corsi, e poi si è sviluppata con l'associazione poi negli anni 80. Ecco, questi sono i vari viaggi, le varie uscite che facevano. Qui siamo a Venezia, Ferrara, Milano, poi sotto. Ecco, questo è il papà. le varie conferenze che lui faceva. Qui sono i russi a San Pietroburgo. Mentre scrive il primo libro. E questo invece è quello che è l'ultimo. Questi sono i libri invece che ho scritto io, Fortezza, quello su Ronca. E questo è quello che uscirà prossimamente, speriamo a settembre. Volevo dire, se c'è una cosa che occorrerebbe, il tram di nuovo per l'Aibis, perché l'Aibis era collegato con Bolzano col tram, io lo studiavo da piccolo. Quindi l'Aibis è interessato, una cosa è il tram. Nel progetto dell'amministrazione è previsto. Prego. Nel nuovo progetto dell'amministrazione è previsto. Sì, non più una carrozza unica come era in città che girava, ma un tram un po' lungo, perché da l'Aibis. No, ma è nel progetto. È nel progetto. È importante. Ho letto l'altro giorno sulla tua Adige che c'era una pagina sul sottopozzano antica che pagavano il pedaggio per passare al ponte d'Alta. Non avevo mai sentito. Sì. Quando c'era il ponte in legno, sì. Che allora pagavano il pedaggio le persone per passare. Sì, sì. Riportava il giornale. Sì, è corretto come cosa. Approfitto, visto che siamo in chiusura, solo per ricordarvi che il giovedì prossimo, 4 maggio, parleremo di Schurer, di Schumeter e immaginario, cioè del fiume Adige e dei suoi legami con la civiltà, il commercio e la navigazione. Ci sono dei professori universitari, ci troveremo qui. Siccome prima si parlava di Bolzano, del Tallare, insomma il fiume ha sempre questo rapporto strettissimo con la città e con le città che si snodano. L'Adige era navigabile, certo. No? Usato per il trasporto di merci. C'era una città che si chiama La Nave, ancora da allora. Sì, esatto. No, sono felice, così. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una bella serata. Vi ricordo allora del convegno il 31 di maggio. Il luogo non sarà più il Museion, probabilmente alla sala civica del comune o al centro pastorale, una delle due. 31 maggio, un mercoledì. Dalle 9:30 alle 12:30 verranno 4 relatori a parlare del cos'è il dato costitutivo della nascita della città, lo sviluppo della città, i castelli come hanno influito nella storia cittadina, eccetera. Che è il relatore della parte storica? Allora, sono due relatori che sono uno dell'archivio cittadino che è Bob Meyer, sì. E l'altro Walter Landi che è dell'archivio storico, poi ci sono io e poi c'è Rizzoldi che parla di castelli. Il 31 maggio? Dalle 9:30 alle 12:30. Comunque ci manda anche in biblioteca, magari sì, delle sì, cose. Sì, sì. Dove? Avevamo fissato il museo, prima Palazzo Mercatile, poi il museo, però ci hanno dato niente e probabilmente lo faremo o alla sala del comune, cioè la sala conferenza del comune, oppure al centro pastorale. Comunque la comunicazione girerà perché metteremo il manifesto città. Grazie.